Buonasera e ben ritrovati qui a Might FM, che vi parla come sempre Claudia Mighty Mau dagli studi di Radio Città Fujiko 103.1. Siamo qui questa sera stanchi, affannati, che i giorni del Cosmo Prof, soprattutto oggi il venerdì, è peggio di Capodanno. Siamo qui per parlare dell'ultimo disco solista, ormai una lunga carriera ormai solista, di Steve Mason. Per le persone per cui questo nome non è familiare, posso dire che è uno dei membri fondatori della Beta Band, gruppo scozzese attivo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, che poi appunto ha avuto una carriera solista abbastanza copiosa, e siamo qui per parlare del quarto disco a proprio nome, dopo pseudonimi e collaborazioni varie. Si tratta di About the Light, uscito per la Double Six, ovvero una sublabel della Domino Records, il 18 gennaio scorso, e prodotto da niente po' di meno che Stephen Street, che è, insomma, sa un po' di storia della musica degli anni 80-90, insomma è stato produttore degli Smiths e soprattutto di Morris all'inizio della sua carriera solista, ma poi ha lavorato con tantissimi altri musicisti e band. Quindi, come sempre, partiamo con il pezzo di apertura del disco, molto politico in questo caso. Si tratta di America is your boyfriend. Politicizzato, in quanto appunto citiamo le parole stesse di Steve Mason. Questa canzone parla, insomma, di come tutto il mondo si debba inginocchiare a qualsiasi presidente americano, e questo succede perché sono un paese potente e hanno i soldi. E lui dice: ho pensato recentemente come mai una certa sezione di gente in America proprio non conosce l'ironia, non l'afferra. E io penso che sia perché non possono permettersi di farlo, perché dovrebbero riconoscere che sono i cattivi, perché un posto costruito sul genocidio non sarà mai un bel posto in cui vivere. Però io aggiungerei, insomma, non è che l'impero britannico non abbia fatto disastri nel mondo. Your boyfriend. Steve Mason nasce il 17 aprile 75 a Edinburgh, poi va a studiare all'Università di St. Andrews nella regione di Fife, dove conosce Gordon Anderson, che però insomma abbandonerà il neonato gruppo subito dopo il primo EP. E questo primo EP si incontrò nel 96, arriva nel 97, si chiama Champion Version. E già ci sono altri membri che fanno parte della band, Robin Jones alla batteria e soprattutto, dico io, John McLean, DJ, sampling, polistrumentista, tastierista. E questo che stiamo ascoltando è un collage di alcuni pezzi dei primi tre EP. E il primo è questa Dry the Rain, che diciamo proprio racchiude già il suono tipico poi che sarà della Beta Band, ovvero The Beta Band. Adesso già siamo passati a un altro pezzo, Inner Meet Me. Dry the Rain ha un andazzo che ricorda moltissimo un pezzo che ascolteremo un po' più in là, di un gruppo che ritorna spesso e ritornerà nei nostri discorsi. Poi nel 98 arriva un secondo EP, The Patty Patty Sound, e nello stesso anno un altro EP, Los Amigos, del Beta Bandidos, e questi tre EP vengono ripubblicati nello stesso 98 col titolo The Three EPs. Adesso siamo passati a She's the One. Frequentato tantissimo The Beta Band, beccavo delle canzoni, non so, quando si andava a ballare ogni settimana al Covo, appunto, soprattutto agli inizi degli anni 2000. E questo è l'ultimo pezzo del collage tratto dal terzo dei tre EP, ovvero Push It Out. Ma dicevo, la voce di Steve Mason è così riconoscibile, familiare, calda, rassicurante, che penso che insomma possa far parte del patrimonio sonoro nel cervelletto di molti di noi. siamo qui riuniti per parlare dell'ultimo disco, abbiamo detto About the Light, uscito a gennaio per la Double Six Records, infatti una sublabel della Domino, infatti il suo logo è appunto la tessera col doppio 6 del Domino, etichetta per cui incide Malkmus, Hopkins, Shenim, John Cale, King Creosote, Spiritualize, George Fitzgerald, e lui appunto dall'inizio della sua carriera come se stesso, Steve Mason. E siamo arrivati al secondo pezzo molto bello di About the Light, si tratta di Rocket. Don't you feel the same? Help me rearrange. We can put it all together again. Ooh, you're like a rocket. I'll put you in my pocket. So when I feel this sad, you give me back the love I cantautore che ha un senso innato della melodia, non fa cose trascendentali, proprio nel puro spirito del Brit Rock anni 90-2000. A differenza di altri album in cui appunto lui è sempre stato un solitario dopo l'esperienza con la Bita Band, anche l'effetto di questo suono pieno è dato dal fatto che per la prima volta ha suonato con la full band, tutto il suo gruppo, direttamente in studio di registrazione, per appunto dare direttamente sul disco quella invece senso di pienezza di suono che invece dal vivo riesce meglio. E questo passaggio mi ricorda tantissimo un gruppo che io amavo e amo tuttora, degli anni 90. Non erano scozzesi ma erano gallesi, hanno fatto anche dischi interi in gallese. Questione di accordi che mi ricorda tantissimo un paio di canzoni loro sono i Super Furry Animals, guidati da Groove Reese, su cui noi facemmo una puntata tanti anni fa, era la seconda stagione, su un suo disco solista di cui ora non ricordo il nome, ma proprio pari da lì abbiamo preso la stessa traccia che avevamo preparato per la trasmissione, ovvero le mie due canzoni preferite tratte da Fuzzy Logic del 96, ovvero Hometown Unicorn e if you don't want me to destroy you. Super Furry Animals. I was lost on the bypass road. Could be worse. I could be turned to tone. Won't you take me back to my home? Continuiamo a parlare della carriera della Bita Band, che firmano per la Regal Parlophone. Esce il primo album omonimo nel 99 e il primo pezzo è divertentissimo, The Bita Band Rap, che proprio racconta la storia della band in tutti i particolari, nomina anche Fife, le persone, il produttore, quello che ha dato il demo l'etichetta, eccetera eccetera. Un pezzo che inizia con un quartetto vocale al Mr. Sandman, continua con uno slacker rap alla Beck, anche se appunto c'è una dedica a gridate Wu-Tang Clan, e finisce Country Rock Blues, un disco che loro poi hanno ripudiato dicendo che il faceva schifo, poi lamentando il fatto che insomma l'etichetta gli aveva fatto un po' fretta. E qui ci sciogliamo. E poi nel 2000 arriva il film Alta Fedeltà, tratto dal famoso libro di Nick Hornby, dove c'è il personaggio protagonista, commesso di negozio di dischi, John Cusack, che nomina proprio e suona il pezzo, il primo che abbiamo sentito prima, Dry the Rain, e dice: vuoi scommettere che adesso in un attimo vendo 5 copie di The 3 EP? E quindi ovviamente questo l'ha fatto conoscere la Bita Band soprattutto al pubblico americano. Poi nel 2001 arriva un discone dei Bita Band, ovvero Hot Shots 2, e loro volevano far uscire come primo pezzo Squares, un pezzo che conteneva un campionamento molto famoso, che proprio quello stesso momento, in realtà era già uscito nel 98 ma poi ha raggiunto le classifiche, l'abbiamo conosciuto anche noi, proprio nel 2001 avevano anche appunto ripreso un altro gruppo, ovvero il gruppo elettronico, il duo di I Monster. Ma la storia di questa canzone, mi sono veramente intrippata, è molto più lunga e molto più complessa. È un pezzo che conoscono tutti. E la prima versione originale che stiamo sentendo era di un gruppo belga, i Wallace Collection, che pubblicano questo singolo nel 1969. E poi sentivo il coro e dico: no, ma questo mi ricorda un pezzo famosissimo di musica classica. E infatti anche loro hanno fatto un sampling ante litteram, perché qui è Lago dei Cigni di Tchaikovsky e anche ripresa l'opera 11, il quartetto per archi numero 1 in re maggiore. E un anno dopo chi è che la rifà? Un altro gruppo collettivo tedesco, ovvero il Günther Kallmann Choir, diretto appunto dal direttore Günther Kallmann, che appunto rifanno Daydream come singolo 1970. Questa appunto forse è la versione che conosciamo noi di più, ovvero dei High Monster, Daydream in Blue, grandissimo successo all'inizio degli anni 2000. Ma a qualcuno non sfuggirà che comunque la linea di basso è quella che poi hanno ripreso i Portishead per Glory Box. E quindi si inizia da Tchaikovsky, si passa per i Portishead, si sono rifacimenti fino a questo millennio e poi appunto quasi contemporaneamente. But I lay upon the ground. I seen the people, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I gave the run around. I reached for feelings, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I lay upon the ground. So e questa appunto è la versione fatta dalla Beta Band, ovvero Squares, che comunque verrà poi pubblicato come singolo poi nel 2002, quando solo un po' il successo di High Monster era passato. Ma noi ci ricordiamo anche questa appunto delle nostre serate di quei tempi. Non so, mi sono intrippata tantissimo perché non sapevo di quale storia avesse questo pezzo così corposa. Torniamo invece a About the Light di Steve Mason, di cui parliamo questa sera, e arriviamo al terzo pezzo che si chiama No Clue. So lucky when you make love clean. Adesso a risentirla questa apertura così è quasi alla REM. Anzi, sì. Bounce around the world. When it comes to love, un album About the Light, che appunto quasi un tributo ad una serenità, una stabilità trovata, perché stranetto forte, si vedono anche i video di Beta Band e poi insomma si segue poi tutta la sua carriera, ha avuto dei momenti molto bui come tutti, ma appunto essendo incapace di non fare canzoni autobiografiche ha sempre espresso tutti i suoi problemi, i suoi malesseri, le sue debolezze, vulnerabilità e dolori nei suoi pezzi, insieme anche ad una grande consapevolezza sociopolitica espressa in vari modi, ne parleremo anche più in là. Ma tornando alla Beta Band, arriva un ultimo disco, Heroes to Zeros, nel 2004, e il gruppo si separa, finisce a schifio, nel senso che poi il gruppo doveva l'etichetta tipo milioni di sterline, una cosa così, grandissima depressione, addirittura per campare va a fare il builder, ovvero l'operaio nelle costruzioni, quindi il muratore praticamente. Però già nel 98 aveva iniziato a fare musica con uno pseudonimo, ovvero King Biscuit Time. Lo riprende nel 2000 pubblicando un primo EP, No Style. Poi appunto dopo lo scioglimento della band nel 2005 esce questo primo singolo che stiamo ascoltando, CIM15, insieme a un altro singolo che ascolteremo dopo, raccolti in un album che esce poi nel 2006, Black Gold, a nome King Biscuit Time. I'm just asking, so forever I know, I'm a government entity, I travel abroad, CIM, CIM, CIM, CIM. Questo appunto un altro singolo, Quang Chao, per un album che prendeva molto dal dub, dal reggae. Io ovviamente potevo rassegnarmi a non sapere da dove venisse questo King, nome King Biscuit Time, e ho trovato che si tratta del più longevo show radiofonico americano in onda ogni giorno feriale, Working Day, sulla stazione KFFA, detta The Delta's Best Country, insomma, no, è il loro slogan, della cittadina di Helena in Arkansas, che trasmette dal novembre 41, e diciamo la local band, cioè quelli che suonavano in studio, erano due musicisti blues, uno dei quali era Sonny Boy Williamson II, e poi ha pubblicato tante raccolte dal titolo King Biscuit Time, in quanto loro erano i King Biscuit Time Entertainers. E mi sembra difficile che possa risalire a qualcos'altro. E però io ho dovuto anche aggiungerci alla fine il mio pezzo preferito tratto da primo EP, No Style, del 2000, ovvero I Walk the Earth. Lo amo tantissimo. Un pezzo che mi piace così tanto che anche nella puntata, su metà in realtà era metà con All J, sui Django Django nel gennaio 2013, di cui fa parte il fratello piccolo di John McLean dei Beta Band, e invece di mettere un pezzo di Beta Band ho messo proprio un pezzo di King Biscuit Time, questo qua, I Walk the Earth. Take me away, take me today, keep on rising higher. Un pezzo che ha la stessa anda, lo stesso andazzo, lo stesso ritmo, gli stessi accordi di Dry the Rain, che appunto vi ricordano, vabbè, i Primal Scream, Loaded, diciamolo, ritornerà anche dopo e alla fine la ascolteremo. E tra l'altro ho letto in diverse recensioni che About the Light, l'ultimo disco di cui stiamo parlando stasera, prende molto invece da, non da Screamadelica, ma dal capitolo successivo nella storia dei Primal Scream, ovvero Give Out But Don't Give Up. Ed eccola proprio la title track, About the Light, di cui abbiamo postato nel tardo pomeriggio un video in bianco e nero di una versione live. Lying by the side of the road, I couldn't stop for too long, 'cause I felt that I was getting old. Have to move real fast now, speed out from under the shroud. Found a place for my love here, and the ticking and the talking is loud. Say it loud. Anche questo pezzo dalle tinte è un po' country blues. I found a piece of bad luck lying by the side of the road. I had a chance to put it in my pocket, but I wasn't, now I'm getting old. Don't care what you think, nobody ever did, honey. And all the love I see in the world, none of it came from money. It came from money. It came from money. Ooh, do you come from money? Never knew it, but I felt it was right when I was told about the light. Never knew it, but I felt it was right. Molto presente appunto anche questo aspetto di questo suono, l'aspetto folk. D'altra parte la Beta Band erano gli alfieri della folktronica, anche insieme a pezzi sperimentali, field recording, si poi univano da un tempo hip hop. Ho pensato veramente quanto gli Animal Collective siano debitori della Beta Band, infatti insieme a un altro gruppo che citeremo dopo, guarda caso, incidono tutti per la stessa etichetta. Cioè è una coincidenza, però una serenità ritrovata, matrimonio, paternità per Steve Mason recentemente, quindi questo album ha quest'aura appunto di serenità, stabilità. Ma appunto c'è stato invece un momento molto molto buio anche nel 2006, quando lui posta un post veramente criptico sul sito di Kim Biscuit Time, per 2 settimane sparisce, familiari e amici non sanno dove è finito e quindi temono anche per la sua sanità mentale, sì, perché comunque si parla sempre anche nelle cose di mental health issue, ma appunto del suo destino. Ma nello stesso 2006 avvia un altro progetto e lo fa con il DJ producer americano Jimmy Edgar, anche fotografo, filmmaker. Questo pezzo non è un ennesimo remix di Blue Monday, ma è uno dei singoli tratti dall'album che poi alla fine è uscito nel 2008. Quindi c'è un primo video diffuso nel 2006, il terzo pezzo che ascolteremo, sempre mixati insieme in una sola traccia, poi escono diversi singoli, tra cui questa It's Real. E non abbiamo detto, il connubio con Jimmy Edgar è a firma a nome Black Affair. E questo era un altro singolo, Tac Attack. Here is the reason why I can't go. I know I called you, but that's all. '80s electro, synth pop, funk, ancora old school R&B, electro, early pop, Chicago house, Detroit techno e synth pop bianco della serie Kraftwerk, Yazoo, Human League, Depeche Mode, Soft Cell, New Order, insomma queste le ispirazioni. Quindi Jimmy Edgar e Steve Mason, ovviamente produttori entrambi del disco, ma Jimmy Edgar anche tecnico, engineer, ha curato i visual, i video, la promozione, l'immagine, la fotografia, l'artwork delle copertine. E soprattutto ascoltando questo pezzo mi è venuto in mente il gruppo che dicevo prima sempre che registra per la Domino, ovvero gli Hot Chip. E questo è l'ultimo pezzo, Subfuge, di cui esiste appunto un video abbastanza fuori di testa, abbiamo pubblicato tutto, video di Beta Band, Kim Biscuit Time, Black Affair, tutti i video di Steve Mason, tutto. Ah, forse non ho detto il titolo dell'album, Pleasure Pressure Point. E Mason descrive il contributo di Edgar così, sofisticato, con un'aria modaiola, ma alla fine è solo musica pop con cupe sfumature sessuali. Undertones. Insomma, questa voce, vabbè, soprattutto nei pezzi di Hot Chip cantati da Joe Goddard, con questa base elettronica appunto mi ha fatto pensare agli Hot Chip, e scorrendo a vista tutti i singoli di Hot Chip, quello che mi suonava giusto era il pezzo che adesso ascoltiamo, tratto da Made in the Dark, è uscito, guarda caso, lo stesso anno del disco dei Black Affair, ovvero 2008, ovvero Ready for the Floor. Devo dire che questa versione originale per me è quasi sconosciuta, in quanto mi ero molto molto appassionata invece al dub remix dei Soulwalks, suonandolo spesso. course. I'm hoping with chance you might take the stance. You're my number one guy. Stand calling up the wall. Why don't you open up with all? I'm ready for a fall. Stand calling up the wall. Come poi dopo non vogliamo fare le cose di corsa, diciamo che About the Light di Steve Mason ha ottenuto la Metascore di 81. Come molti sanno, noi qui a Mighty FM attingiamo a questa risorsa online che si chiama metacritic.com, dove vengono raccolte tutte le recensioni di un album, vengono segnalate tutte le uscite per nome e per data, ci sono tutti i voti aggregati eccetera, è molto molto utile, e quindi la media è 81. E direi che nella sua attività solista Steve Mason ha una costanza ammirevole, in quanto appunto i suoi album precedenti solisti hanno sempre avuto 80 o 81 di media. E per About the Light abbiamo il voto massimo, che è il 9 di Clash Music, poi tutta una sfilza di 8, poi solo un 7 e solo un 6.8, che secondo voi chi era dato? Pitchfork, perché già se uno è inglese Pitchfork già toglie un paio di punti. Ma torniamo appunto ad un'altra traccia di About the Light, si tratta di Fox on the Rooftop. La mia totale ignoranza dei Pink Floyd, ravviso invece un'influenza dei Pink Floyd, la cui primitiva versione musicale aveva influenzato invece molto The Beat Band. L'esperienza breve con Black Affair, qualche singolo, un disco e via, Steve Mason decide di tornare da solo, senza più pseudonimi, senza più compagni. E appunto, senza neanche tante pause temporali in mezzo, già nel 2009 anticipa l'uscita del primo album a proprio nome con un singolo. I saw a fox on the hillside, cheeky bugger with the light in his eye. I scratched alone at the river in the moonlight, twice my side. This boy said no. E tornando appunto alla recensione di Pitchfork, nel sito Metascore si possono, ci sono ovviamente i link a tutte le recensioni, quindi alle testate nominate, tranne quelle che esistono solo in cartaceo, tipo Q Magazine, Uncut e Mojo. Ma il sito sceglie appunto delle frasi appunto come riassunto. E la frase scelta da Pitchfork è che questo disco, pur essendo un ritratto della felicità, diciamo che colpisce di più quando Mason riconosce la strada lunga e faticosa che è stata necessario percorrere per arrivare a questa felicità. Ma un po' nei suoni, un po' nell'atmosfera, un po' pensando ai grandi songwriter britannici, pensando anche a Stephen Street, come non pensare a Damon Albarn? Nella sua vena un po' più malinconica, e non essendoci più un album a suo nome dopo il bellissimo Everyday's Robots del 2014 ormai, I landed on the silver lake, washed up and feeling blue. Heard the sound of footsteps drifting softly to the moon. Looking for clear water, I had to take control. Out there in the wilderness, another bullet hole. Playing it all for gods yesterday. Dato che ultimamente i dischi a cui ha lavorato Damon Albarn sono stati tutti album di collaborazione con The Good, The Bad and The Queen, oppure dischi di world music con il collettivo Africa Express, abbiamo scelto il pezzo più atipico dei Gorillaz, ovvero questa lente meditativa Idaho, che parla appunto della bellezza e delle strade di questo stato, tratto dall'ultimo album dei Gorillaz del 2018, The Now Now. Torniamo all'ascolto punteggiato di appunto contributi da produzioni precedenti, delle protagoniste delle nostre trasmissioni o dai cosiddetti contributi esterni, torniamo appunto ad ascoltare un pezzo di About the Light. Si tratta del primo pezzo che è stato diffuso a metà settembre del 2018 per annunciare appunto la successiva uscita dell'album. Si tratta di Stars Around My Heart, con un video molto carino. There are stars around my heart. Would I dare at the star? She has brought the lights I see. I won't look back, but that's not for me. Questo breve ritornello carinissimo che dice: ma lo senti che sono innamorato di te alla radio? Tutte le canzoni che nominano la radio sono belle. Un po' Primal Scream, un po' Belle and Sebastian, tutti scozzesi, eh? E come si sente particolarmente in questo pezzo, ma già si sarà sentito anche precedentemente, un'altra cosa che ha magari suggerito Stephen Street è di aggiungere dei grassi fiati e dei cori, delle voci femminili, oltre appunto a registrare con tutta la band. Dicevamo, nel 2009 un'anticipazione del primo album a proprio nome, e poi un altro singolo a primavera, poi a maggio 2010 esce Boys Outside. You came here through mine and I lost my mind that night, and there's a darkness that persists through all of this. I try to keep the light on, it exists, and it's me against the world now more than ever. But my brain says to me that I'm not so clever. Oh, singolo successivo era questa, Am I Just a Man, che ha molto di Northern Soul, che viene anche nominato relativamente a About the Light, e a me fa venire in mente infatti un po' il suono dei Verve. Invece sentendo questo ritmo mi è sembrato proprio una roba tipo tra Alanis Morissette e Dido. È Lost and Found, un altro singolo. Queste percussioni sono proprio tipiche anni 90. Un disco che appunto segna già allora, perché vedi, si cade, ci si rialza. Un disco che appunto segna la rinascita, la ripresa, e questa è All Come Down, appunto il primo pezzo che era stato pubblicato. Beh, Massive Attack. È un disco appunto in cui canta di vicende personali strazianti, però in un contesto musicale pop molto cristallino, pulito. È un setting musicale che però è minimale, chitarra, pianoforte, pochissima elettronica, per storie invece estremamente dirette di depressione e elaborazione del lutto dopo fine di relazioni. E questo anche rappresentato da una copertina che è una foto scurissima, mossissima, cosa appunto quelle fatte per sbaglio, bianco e nero, veramente non si distingue nulla. Siamo tornati a About the Light, questa è Spanish Brigade. Classico dude rock. Adesso che ci penso, anche la carriera solista di Gus Coombs dei Supergrass potrebbe affiancarsi, unirsi a questo gruppetto. Poi il titolo, la Brigata Spagnola, anche con la Beta Band c'è una passione per eserciti e uniformi, sono un paio di video tutti molto belli, poi ci sono i vichinghi, i romani, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, i napoleonici. piaciuto particolarmente il video di Assessment tratto da Heroes to Zeros dei Beta Band, dove c'è una spiaggia, un passaggio di testimone dall'uomo primitivo, proprio primitivo, almeno primitivo, al romano, poi medievale, eccetera eccetera, fino a prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, e alla fine il soldato della prima guerra mondiale consegna questo cilindro a degli altri militari. Stanno anche altri impiegati seduti alla scrivania sulla spiaggia e posizionano questo cilindro e è un'esplosione atomica. E questo ci porta, sempre casualmente, dovete crederci, al prossima traccia, ovvero appunto questa consapevolezza sociale un po' di quanto l'uomo sia appunto sia distruggendo con le sue mani, colpevole della sua distruzione, dove il mondo è diventato solo appunto schiavo del capitalismo, quando l'essere umano invece è molto di più, mondi interiori, il mondo della natura. Appunto lui lamenta che l'uomo appunto sia stato dissociato, separato, e lo ha espresso molto bene nel successivo album solista che arriva nel 2013. Si tratta di Monkey Minds in the Devil's Time, che è quasi un concept album di 20 tracce inframmezzate poi da pezzi brevi strumentali o parlati. I don't know what to feel, my sister. E questo ne è un pezzo. Oh my lord. Why do I mind the old scenes? A sight for sorrow, a mask to borrow. When you win, you're out forever. Un album che era stato anticipato nel 2012 dal video di Fight Them Back, che era tutto un montaggio delle rivolte di popolo in Grecia, G8 eccetera, e anche riferimento soprattutto ai London Riots del 2011. E in mezzo, giusto per far qualcosa, nel 2011 comunque era uscito un dub remix album di Boys Outside dal titolo di Ghost Outside insieme a Dennis Bovell. Ma dicevamo, Monkey Minds in Devil's Time è un concept album molto politico, anche qui 8 di media e 7.9 da parte di Pitchfork, però appunto con degli sprazzi di sperimentazione. E c'è quasi un racconto, queste tracce sono cucite insieme in modo strategico, c'è una progressione da storie individuali, insomma i soliti pezzi confessionali, invece allo sguardo fuori di sé e appunto reagire a cosa succede nel mondo, reagire alle ingiustizie. Quindi la prima metà sono ballate, la chitarra, rock classico. Proprio in mezzo ci sono questi intermezzi più sperimentali, tipo alla Beta Band, pezzi dub, pezzi alla melodica che appunto ricordano molto Damon Albarn, soprattutto della colonna sonora di 101 Reykjavik, telecronache di corse automobilistiche, e andando avanti nell'ascolto questi intermezzi apparentemente nonsense prendono più corpo come preludio appunto a questo discorso del risveglio della coscienza sociale, soprattutto espresso da un pezzo cantato da un MC ospite che appunto parla dei London Riots del 2011, e il pezzo successivo che è questa Fire. È un po' il ritmo di un po' di Fool's Gold di Stone Roses. Sembra un pezzo quasi allegro, il video appunto sono tutte persone normali che decidono di reagire, di prendere posizione, di confrontare l'autorità nei luoghi dell'autorità. E dice, a questo punto cosa facciamo? È chiaro, bisogna reagire. un pezzo definito Funk and Fury. E anche appunto Fight Them Back, cioè è ora di rispondere, di reagire con pugni, scarponi, quindi calci, e mazze da baseball. E appunto, diciamo, ci abbiamo girato intorno e siamo arrivati a Loaded, la seconda parte di Loaded di Screamaderica, dei programma Scream 91. Io mettevo la cassettina nell'autoradio della mia 112 e mettevo su questo pezzo quando andavo a dare gli esami all'università, mi caricava tantissimo Loaded. Per finire il discorso su Monkey Minds in the Devil's Time, proprio la recensione di Pitchfork dice: questa conversione al proselitismo politico nell'ultima parte del disco può risultare stridente, ma rappresenta proprio il modo in cui la politica a volte può irrompere all'improvviso nella nostra vita e stravolgere la nostra visione del mondo. We wanna be free. E infatti c'è, ho trovato anche il video di una brevissima intervista di presentazione del disco dove dice appunto: siamo diventati tutti dei piccoli capitalisti, ma l'essere umano è altro. Che appunto che aveva raggiunto l'8, c'è anche un 4, ma c'è anche un 10. E Q-Mag diceva: Mason è un autore dotato che sa esprimere rabbia, malinconia, speranza e melodia. E c'è una frase di appunto Fight Them Back che dice: religione e valuta, vi odio tutti. Just what is it that you want to do? We want to get loaded, and we want to have a good time. About the Light con Don't Know Where. Never know. I'm in the middle, there's a riddle and a box. fatto un'intervista in cui dice che, per esempio, l'industria musicale è piena di difficoltà appunto per chi viene, per chi è proletario, chi vuole fare musica è proletario, ha come unica speranza i talent show, o X Factor. Che ho visto la copertina è molto pop, cioè il nome ha scritto, il titolo era Cornice, e poi una foto in bianco e nero al centro, ho detto beh, questa foto non può essere casuale, e ho trovato appunto una recensione di un sito francese in cui racconta che si tratta di uno scatto di Nick Hedges, che è il corrispettivo, il mondo fotografico di quello che in Inghilterra è Ken Loach per il cinema. Alla fine degli anni 60 aveva percorso l'Inghilterra per fotografare appunto le condizioni della working class britannica, Birmingham, Leeds, Bradford e Londra, e infatti questo gruppo di ragazze sbarazzine, sì, sono le Teenage Girls at Dusk in Salford, ovvero Manchester, ovvero insomma tutta quella zona legata anche agli Smiths. E arriviamo al terzo disco solista, come Steve Mason, nel 2016 arriva Meet the Humans, molto più leggero, arioso. E lui dice che appunto dopo, diciamo, anche un po' la pesantezza di Monkey Minds and the Devil's Time, voleva qualcosa di quasi frivolo, solo una un semplice raccolta di canzoni. And just like it's nothing to it, and they will sing to you baby as they taxi daily. You know I can't sleep beside it. E i video di questo album sono tutte animazioni, cartoni molto carini. Anche il video di questo pezzo che si chiama Alive. Una raccolta di canzoni molto diverse l'una dall'altra, ognuno appunto con la propria individualità, un disco portato alla vita grazie alla produzione di Craig Potter, ovvero tastierista degli Elbow. Metascore 81, siamo sempre lì, 80-81, il Guardian ha scritto: il calore del disco smentisce il mito che la vera arte arriva solo grazie a cupezza e disperazione. Ma un disco che non è stato recensito da Pitchfork, a differenza dei precedenti e del successivo. La cosa interessante è che numerose recensioni lo considerano il lavoro migliore fino ad allora. Adesso le recensioni di About the Light, molti dicono lo stesso di questo disco, quindi proprio una costante crescita, fa dischi sempre più belli. È un disco, questo Meet the Humans, che è stato descritto come commovente e energizzante. Questo pezzo Alive, che vede il ritorno all'uso della melodica, lui dice: abbandonata, che avevo usato tanto in passato, ma poi l'avevo abbandonata come una spada laser nel cassetto dei calzini di Obi-Wan. E già da questo album in qualche pezzo aveva ripreso a suonare con la full band, a registrare, e provando appunto grande sorpresa e divertimento, perché lui dice non è facile per un artista solista, perché poi lui fa tutti i demo a casa sua dei suoi pezzi, anche perché appunto non lo aveva fatto da anni e perché I'm not used to having fun, so I had a double good time. Perché ho trovato su Genius Lyrics il commento a tutte le canzoni di questo album e sono divertentissimi, e questa è un'altra canzone molto bella, Planet Sizes. Capisce anche che per questo pezzo ha cercato l'aiuto per il ritornello di Ian Archer, vero musicista nordirlandese che ha suonato con Snow Patrol, Reindeer Section, è stato il creatore di Run, il bellissimo pezzo di Snow Patrol. E appunto disco prodotto da un membro degli Elbow, quindi come non mettere il pezzo più bello degli Elbow? È stata veramente una rivelazione sentire questa Newborn da A Sleep in the Back del 2001, un pezzo di oltre 7 minuti per chi lo conosce, per cui abbiamo messo solo un estratto, beh, abbastanza corposo però. E ce la teniamo per continuare appunto a parlare di Planet Sizes, uno dei singoli tratti da Meet the Humans, questa nota molto lunga che c'è accanto al testo dove lui racconta: vi ricordate il primo film di Superman con Christopher Reeve? È uscito intorno al 1987, io avevo intorno a 6-7 anni quando mio padre mi portò a vederlo, stessa cosa, era un po' più grande però stessa cosa. E ho pensato che fosse meraviglioso, appena dopo il film, dopo il cinema, sono uscito dal cinema, ho guardato in alto e ho puntato i pugni contro il cielo e davvero credevo che sarei decollato, sarei volato, ma ovviamente non è successo e quindi insomma mi si è un po' spezzato il cuore e non l'ho veramente superata sta cosa. Ti succedono un sacco di cose quando sei un bambino. E siccome la società ancora non te l'ha detto, tu pensi che sia possibile tutto, qualsiasi cosa, ma sfortunatamente volare è fuori questione per gli esseri umani. Ed ecco di cosa parla Planet Sizes: cercare di tenere viva la tua immaginazione, infatti questo è descritto molto bene dal video e animazione, la meraviglia, la bellezza che tu avevi dentro quando eri un bambino e pensavi che tutto fosse possibile. Guardare le stelle è già solo essere in uno stato di meraviglia guardando i cieli. E invece poi dopo, quando qualcuno ti insegna qualcosa, ti indottrinano a farti vivere una vita molto, molto stupida, molto ristretta, ti viene solo insegnato ad essere un capitalista, a lavorare, guadagnare soldi, comprare robaccia, ma non è questa la vita. Non c'è niente di sbagliato nell'essere un sognatore, avere immaginazione e uscire fuori dalla corrente prevalente di pensiero. La società è molto pesante vivere all'interno della società per molte persone. C'è sempre questa pressione di a provare, sopravvivere. E invece bisogna cercare di tenere il bambino dentro di sé vivo, perché essere un adulto is really fucking boring. E torniamo a Above the Light, e dopo il primo pezzo diffuso a settembre ne arriva un altro video strano, a dicembre, Walking Away From Love. Walking away from love, I kicked right through the door. Walking away from love, I couldn't take no for the answer. Walking away from love, I used to be a really good dancer. Walking away from love, to the eyes, walking away from love, a glimpse there of the prize. Walking away from love, I look real hard for the answer. Walking away from love, I think I fell in love with a chancer. Walking away from love, what you gonna do when you hide away? What you gonna do when you hide? Che il lato biografico non è secondario, ma è proprio primario per tantissimi artisti, e a maggior ragione per Steve Mason. Anche la leggerezza di The Humans è forse dovuta anche al fatto del cambio di ambiente. Lui appunto ha lasciato il nord della Scozia brumosa, la contea di Fife, e si è stabilito a Brighton, insomma tutt'altro ambiente. For me, is there a room inside your heart? For me, yeah. E lui stesso dice: Fife rappresenta la solitudine, mentre a Brighton sono l'anima della festa, il party guy. Ed è infatti tra Londra e Brighton che è stato anche registrato questo About the Light. E ascoltando questo pezzo, soprattutto l'inizio, il ritmo, il modo di cantare, ho pensato assolutamente ai Django Django. Abbiamo detto come il fratellino piccolo di John McLean sia appunto l'uomo delle macchine o il percussionista, sì, tutte e due credo. Super nerd. E quindi ovviamente ci becchiamo un pezzo di Django Django, ma non un pezzo a caso, ovvero tratto da il primo disco omonimo su cui dedicammo metà puntata tanti tanti anni fa, Django Django appunto. E tra l'altro io l'ho visto due volte dal vivo e sono state due meraviglie di concerti, uno appunto l'estate scorsa a Treviso. Abbiamo scelto appunto un pezzo, Life's a Bitch, che non è la vita, non è la vita puttana dei giornalisti, ma la vita è una spiaggia, Life's a Beach. E perché abbiamo scelto questo pezzo tra tanti bellissimi come Hail Bop del primo disco, perché proprio e solo di questo pezzo lo stesso Steve Mason ha fatto un remix. Questo il viaggione che si è fatto Steve Mason, appunto, e questo uso della melodica che sembra dei fiati ricorda tantissimo, questo eco dub ricorda tantissimo Damon Albarn. Perché nello stesso anno dell'esordio discografico, grandissimo successo per i Django Django, che nell'interno dello stesso anno 2012 pubblicano un album di remix di pezzi dell'album dal titolo High Jinx, e questo contributo di Steve Mason si chiama Steve Mason's Priests of Sound Remix. Continuiamo a dare un'occhiata alle reviews di About the Light. Under the Radar dice è un disco muscolare, vibrante, addirittura una collezione, una raccolta di canzoni addirittura vivace. Sì, ci sono ancora racconti un po' di tristezza, ma è molto, appunto, è il massimo della sicurezza di sé. E la qualità del songwriting, dice Q Magazine, è quello che veramente spicca, perché ogni canzone è proprio di prima scelta in termini melodici. Poi All Music dice che appunto è un punto più alto della carriera per Mason, e la recensione successiva in ordine è quella di The Skinny, sempre questi sono soprattutto 8, che dice l'unico aspetto negativo dell'album è che è così facile da ascoltare che quasi non ce ne rendiamo conto e arriviamo a The End, il pezzo conclusivo, ovvero questo. e le ultime due recensioni, Music of MH appunto dice che c'è abbastanza in questo disco da dimostrare, da provare che questo è il disco migliore che ha fatto nella sua carriera solista. E Clash Music, il voto più alto, 9. Dice che Above the Light è possibilmente la cosa più grandiosa che abbia pubblicato finora. Gradevolissimo, piacevolissimo, che ricorda dei suoni che per persone come me ricorda tanti gruppi amati in passato, e quindi dà appunto sempre l'occasione di riascoltare cose che non ascoltiamo più, perché siamo sempre insomma sul pezzo, sull'attualità. Per questo disco About the Light, uscito il 18 gennaio 2019, è non solo prodotto da Steven Street, ma Steven Street ha anche mixato e ha curato la programmazione delle percussioni, drum programming. Insomma, la batteria non suonata. Anche questo un po' appunto in questo rallentamento qui del ritornello, il basso ricorda un po' i Stone Roses, cioè sono diversi passaggi, un po' un mistone del meglio della musica britannica tra anni 90 e 2000. Invece la fine arriva. Vabbè, pure te l'hai messa alla fine, perché la fine è la fine di Mighty FM dedicato a Steve Mason. Ciao, da Claudia, Mighty Mouse.